Beh, pensate che in questa bozza non si nominano i combustibili fossili, non si nominano gas, petrolio e carbone, ossia i principali responsabili dei cambiamenti climatici in termini di emissioni di gas serra, quelli che ne emettono più di tutti, non vengono neanche nominati. Ovviamente ci sono anche altri temi importanti, allevamenti intensivi, agricoltura, deforestazione. I combustibili fossili però vengono completamente ignorati. Praticamente si parla di cambiamenti climatici solo per parlarne, senza ipotizzare nessuna azione, e questo sarebbe l'ennesimo atto di greenwashing che non ci possiamo più permettere. Solitamente la prima bozza, appunto, di questi vertici è quella un po' più ambiziosa, poi si va a scalare con emendamenti e, come dire, anche compromessi. Se la prima bozza è così, dobbiamo immaginarci ancora meno. Le regole di ingaggio di questi summit prevedono l'unanimità per chiudere i documenti, quindi effettivamente di solito le prime bozze partono da un'ambizione più elevata rispetto a quella che è poi la bozza finale, perché poi si gioca al compromesso, si gioca, diciamo, la partita delle modifiche, dove ogni stato purtroppo porta avanti i propri interessi, che non sono sempre quelli del pianeta e delle persone che lo abitano. Avere una prima bozza che già parte così poco ambiziosa è un pessimo segnale, veramente pessimo, che raramente si era visto nelle precedenti 25 conferenze sul clima. Per questo noi siamo sia allarmati sia arrabbiati, e speriamo che questa attenzione mediatica che adesso c'è intorno a questi non contenuti praticamente porti gli stati al tavolo ad isolare quelli che sono i paesi che stanno cercando di bloccare questi negoziati, perché veramente se questa è la prima bozza, l'ultima è quasi spaventoso l'idea di vederla. Torno un attimo sull'assenza della questione dei combustibili fossili. A cosa può essere dovuta? Alle pressioni delle lobby? Ovviamente sì. Considerate che la lobby fossile, come aziende della lobby fossile del petrolio, del gas e del carbone, sono molto presenti in vari modi e con varie delegazioni anche alle conferenze sul clima, hanno un potere enorme e ci sono stati che hanno grandissimi interessi ovviamente in questo ambito. Penso all'Arabia Saudita per tutta la parte degli idrocarburi, penso all'Australia per il carbone, ma ovviamente tantissime altre. E questi paesi, noi come Greenpeace abbiamo già dimostrato con alcuni commenti che siamo riusciti ad avere proprio di questi paesi ad un testo dell'IPCC, stanno cercando di svuotare ognuno per i propri interessi il testo di risoluzione della conferenza sul clima. Quindi quello che noi chiediamo, ma chiediamo da tempo e non lo chiediamo solo noi, ma tutti i movimenti che sono adesso a Glasgow in tutto il mondo a protestare, a farsi sentire, è che si smetta di ascoltare gli interessi di queste lobby e si inizia ad ascoltare quelli nostri, delle persone che questo pianeta lo abitano, lo vivono, ci lavorano e hanno diritto a continuare a farlo nel migliore dei modi. Proprio sui movimenti volevo farti un'ultima domanda, perché a differenza di 6 anni fa con appunto l'accordo di Parigi sembra esserci molta più consapevolezza anche dal basso sulla questione del cambiamento climatico, ma anche sul greenwashing da parte appunto dei grandi della terra. C'è l'espressione oramai coniata da Greta, bla bla bla, che è abbastanza esemplificativa di questo, no? C'è più consapevolezza? Assolutamente sì, d'altronde sono passati non tanti giorni da quando in Sicilia abbiamo visto il Medicane che ha messo in ginocchio quasi, insomma, l'intera regione, purtroppo con delle scene che ancora abbiamo tutti negli occhi. E quello non è maltempo, anche se tanti media lo tendono a chiamare così. Quelli sono i drammatici effetti dei cambiamenti climatici e purtroppo è solo l'inizio, perché se guardiamo quello che succede in altri paesi la situazione è anche molto peggiore. C'è un ministro che si è collegato con la COP, ha mandato un video in cui sostanzialmente ha l'acqua dell'oceano sopra le ginocchia e sta lanciando un allarme. Quindi di consapevolezza ce n'è infinitamente di più nei movimenti, ma anche nelle persone, diciamo, che non fanno parte del movimento ambientalista. Di contro la minaccia è un'altra. Prima si poteva negare l'effetto dei cambiamenti climatici, le cause e quant'altro, oggi no. E quindi cosa fanno le aziende e i governi? Il cosiddetto greenwashing. Ormai tutti parlano di green, tutti parlano di sostenibilità, diventa green l'agricoltura, l'allevamento, il carburante, l'energia, tutto è sostenibile, non è vero. Spesso questo è greenwashing, ossia parole verdi e investimenti che sono tutt'altro che verdi, continuano ad andare appunto nel gas, nel petrolio e nel carbone. E in questo anche l'Italia, con il suo governo e con una delle sue aziende statali come Eni, che ha interessi nel gas, si nasconde dietro a tante parole verdi, ma poi se andiamo a vedere dove vanno i soldi non stanno andando nella direzione giusta.